Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Giulio Caperdoni ad accogliervi come ogni giorno sulle porte di Eclettica attorno alle ore 19 dopo che Edo ha chiuso quello del suo programma. Così ancora per qualche settimana fino a quando non si tireranno giù le saracinesche dell'intera radio e poi chissà che cosa ne sarà del nostro futuro. Io sono comunque ottimista perché siamo un gruppo molto, molto solido e a questa solidità contribuisce anche il supporto, il conforto, la forza che ci viene da chi ci ascolta. Un giorno, non molto distante nel tempo, lui si è trovato improvvisamente a specchiare il suo viso contro l'oblò di un piccolo aereo in volo fra Parigi e Monaco di Baviera. All'esterno, 8000 metri più sotto, la catena delle Alpi appariva come un'increspatura di sabbia che la luce del tramonto tingeva di colori dorati. Il cielo era un abisso cobalto che solo verso l'orizzonte in basso si accendeva di fasce color zafferano o arancione zen. Inquadrato dalla ristretta cornice ovoidale dell'oblò, il paesaggio gli parlava del giorno e della notte, dei confini fra i mondi della terra e dell'aria e da ultimo, allorché si accese una luce nella carlinga e su quell'olografia boreale apparve il riflesso del suo volto appesantito e affaticato, anche del sé. Questo era l'incipit di Camere separate di Pier Vittorio Tondelli. Be the hero, I'm a tragedy. When they sew you closed, they'll give you back to the water. What is it? The stuff that dreams are made of. Perché, la prima volta che ti ho scritto, non molto tempo fa, ti ho detto che non ero molto bravo con le parole. E dopo quello che vi hai detto stasera, è pure difficile esprimersi. Anche se mi sono iscritto alla tua blacklist da molto poco, ti seguo già da qualche anno, in maniera occasionale, e a volte, lo ammetto, pure distratta. Il fatto è che in vita mia non ho mai avuto una routine fissa, degli orari prestabiliti che mi facessero dire «Adesso ascolto Eclettica e poi preparo la cena» o cose del genere. Il mio stile di vita ha sempre avuto un ritmo sincopato, perfetta trasposizione di una personalità eclettica, per l'appunto. Tuttavia, da un po' di tempo a questa parte, una serie di coincidenze hanno fatto sì che dalle 7 alle 8 di sera mi trovassi nelle vicinanze di una radio o di un PC. E da allora è andata a finire che mi ci sono affezionato a questa inaspettata familiarità. Così mi sono iscritto alla tua blacklist ed ho iniziato ad archiviare le tue playlist in un'apposita cartella che porta giustamente il nome del tuo programma. Pensa che ho avuto pure l'ispirazione un mesetto fa di scrivere una storia che parlasse di un ragazzo che diventa uomo ascoltando il tuo programma e che invece di scrivere le sue sensazioni su un diario ti scrive email che per vergogna non ti spedisce mai. Fino a quando si imbarca in un viaggio per venire a conoscerti e diventare appunto l'uomo che sarà. Vabbè, non c'è un filo in quello che ti scrivo. Volevo giusto dirti che dai voce ai miei stati d'animo e credo a quelli di tanti altri. Che ti devo dire, Giulio? Mi dispiace veramente tanto che Eclettica subisca questo brusco stop. Speriamo che si tratti solo di una brevissima vacanza. A presto, Antonio. E questo è Antonio, come già ho detto, che rappresenta, perlomeno in questa prima parte di Eclettica, tutti coloro che stanno scrivendo a giulio@radiorockfm.com, al nostro numero per quanto riguarda gli sms, a tutti gli altri indirizzi della radio che stanno pubblicando su blog, forum, siti sparsi per la rete le loro parole in libertà legate alla chiusura di Rock FM. Eclettica che quest'oggi si è aperta con i Cloud Cult, uno dei brani che più vi piacciono, When Water Comes to Life, e me lo fate sapere a giulio@radiorockfm.com. Poi White Rabbits con The Plot, per passare ora invece ai Marta sui Tubi, che escono non con un nuovo album, per quello bisognerà aspettare l'autunno, ma con un DVD. Nudi e crudi, questo è il titolo del DVD che contiene un inedito, e questo è l'inedito, l'unica cosa. Prendo il treno, mi dico, ok, è tutto fatto, ora comincerà una storia nuova, uscirò dal buio di questa notte come un altro uomo, ho 19 anni e mi tocca cominciare da capo. Questo mi dico quando getto il mio sacco da marinaio sul convoglio diretto a O. per incorporarmi nell'esercito d'Italia. Ah, una brutta storia, direte voi, davvero brutta. Lo so, accidenti, e c'ho paura. Qualcosa mi scioglie le gambe, ma c'ho coraggio da vendere e fegato da smistare per tutti. Qualcosa probabilmente inciso nel DNA si sveglia. Dico, è un momento arcaico questo, anche se non c'è guerra, anche se non c'è lutto. La partenza del soldato è una storia molto vecchia, ma non mi fa paura. Questo era l'incipit del diario del soldato Acci, di Pier Vittorio Tondelli. You always have a very smooth explanation ready, huh? What do you want me to do, learn to stutter? me sometimes.